24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La Corte Costituzionale con la sentenza depositata a decidere, altro che bagna la turca e tutte. Allora, ancora articoli sulla legge elettorale, editoriali di Michele Ainis in prima pagina del Corriere della Sera, e so già chi è in brodo di giuggiole per questa cosa. Michele Ainis oggi scrive sul Corriere della Sera: adesso il Parlamento dovrà riscrivere la legge elettorale, sempre che ne sia capace. Mica male, eh? Vabbè, la legge elettorale. Cari italiani, questo è 24 mattino, sono le 6:33 minuti, e c'è incredibilmente sbrandata Elisabetta Fusconi. È perché c'è Miriam Lucchetti con la febbre. Tanti auguri, è stata vicina all'Alpino, subito si è presa la febbre. Saluto l'Alpino e in regia Peter Bescapè. E allora siamo tutti pronti? Siamo pronti qui con il Parlamento che può aprire? Sì, può aprire. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri. Vabbè, Nicole c'è sempre. Mentre quello là è andato. È andato nel senso. La faccia triste dell'America. È andato in Messico. Il vento soffia la sua armonica. Che voglia di piangere. Letta in Messico, caro Vincino, buongiorno. Buongiorno. Letta in Messico, questa te la ricordi? Messico in nuvole. Come no, certo. Saluto anche Silvia Brasca del TG della 7. Silvia, buongiorno, eccoci. Dove sei? Silvia, pronto? Silvia. Messico e nuvole. Ha sentito Messico e nuvole Vincino e ci ha abbandonato. No, qua sono io. Dico Vincino ci ha abbandonato. Sì, ha sentito Messico e nuvole, ha detto: ma che ci faccio? Silvia. Io? Silvia, torna, Silvia. Rimembri ancora. Infatti, aspettavo te, caro Vincino. Dai, tu che hai più memoria di questo. No, arrivo solo alla prima. Ma rimembri ancora, ancora. Com'era? Silvia Brasca, com'era? Silvia, eccola. Rimembri ancora. Eccola, era caduta la linea, scusami. Ma che sei? Collego da adesso, buongiorno. Ma che sei in Messico con Letta, no? non lo so. Com'è che era, Silvia? Rimembri ancora quel tempo di mamma mia, ragazze, che si parla. Tu te la ricordi, Silvia? Aspetta, devo fare subito Google, così faccio proprio quello che sa Google. No, vabbè, non me la ricordo. Niente, Silvia non se la ricorda. Silvia, te la ricordi? Non me la ricorderei pure, però. Ma no, non ho capito perché la state citando, perché mi sono collegata solo ora. Eh sì, perché è caduta la linea e eravamo qui. Silvia. Invocavamo. Silvia, aspetta. Ah, ecco perché, ecco la fatta. Aspetta, a Silvia di Giacomo Leopardi, E qua adesso bisogna. Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando Meltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. Vincino, dai, su, insomma, queste cose dovresti saperle. Vabbè, allora, io c'è la legge elettorale, lo so, c'è da parlare della politica, lo so, ma voglio parlare per il secondo giorno, perché gli italiani parlano di questo. Sapete di cosa parlano, Vincino e Silvia Brasca? Di cosa parlano? Di Hollande, ma bravissimo, ma di nient'altro si parla, di Hollande. Che vergogna, mamma mia. Che vergogna. A casa di un delinquente, mamma mia, manco la casa sua c'aveva, almeno i nostri c'hanno la vita loro. Vedi che lo sapevo Vincino subito, di cosa parla di Hollande, perché Vincino non parla d'altro, anche col busto di Andreotti in marmo, tu parli di Hollande. Assolutamente. cara Silvia Brasca, ma come... Ma poi è brutto in una maniera, guarda, ormai c'è uno dei premier più brutti che ci siano nell'Europa presidente. Silvia Brasca, ti pare possibile, cara Silvia? Intanto ti faccio una domanda, visto che tu sei donna. Pare che Valérie voglia perdonarlo. Ma adesso lì stiamo... Insomma, a queste... Io non ci credo, insomma, non è vero che i titoli di oggi è il perdono di Valérie, non lo so. Quello non voglia perdonarlo, lì c'è da tenere su... un sistema, non una coppia, ecco, un sistema. Probabilmente lei aveva, la sua vita era stata indirizzata a quello. Sul fascino di Hollande. Hollande. Cosa c'è di fascino? Cosa c'è di affascinante? C'è tu vedi Hollande. C'è un proverbio veneto: lo sgheo fa lo seo. E allora, Vincino, questa l'hai capita anche tu di Palermo, lo sgheo fa lo seo. Allora, sta che... lo sgheo, il potere, fine della storia. Ah, ecco, ecco. Capito, Vincino, qual è? Si dice comandare e meghi futtere, però... Vabbè, comunque, cosa c'è di affascinante in Hollande? Tu, Vincino, da uomo. Dicono che faccia ridere. Dicono che sia una persona molto divertente. Cioè, infatti, c'è tutto dicono. Mezza Europa che ride. Infatti, si sta ridendo moltissimo, effettivamente. Prima pareva facesse ridere nel tête à tête, diciamo. Adesso fa ridere un po' tutti. Vabbè, no, comunque, Massimo, Vincino, siamo di fronte a un'istituzione. Comunque, l'Eliseo, la Presidenza della Repubblica, e dai su. Poi c'è la mafia corsa, la delinquenza corsa, un'altra istituzione a 100 metri di distanza, come dire, il massimo rispetto per le istituzioni, ma attenzione. Bisogna dire che le donne perdonano quasi sempre. Ah, secondo te? Quasi mai. Secondo te lo perdona? Assolutamente sì. E come assolutamente sì, ma è stata spiattellata un tradimento al mondo con i coni della guardia del corpo che portava i croissant il giorno dopo sul vassoio. Tu pensa, quello che ha ricevuto quest'ordine, domani alle 8:30 presentati con i croissant a casa della mafia corsa a portare le brioche. Grazie al coraggio. Che se fosse successo negli Stati Uniti all'ospedale ci finiva Obama. No, cioè. Attenzione, perché tu citi gli Stati Uniti, ma guarda che il National Enquirer, e oggi Libero lo riprende, dice questo: Michelle Obama dorme in camera separata e qualcuno giura chiederà il divorzio non appena finirà la presidenza Obama. Quindi, non voglio sapere. Quindi dura vita per i presidenti. Quella c'è certi muscoli. Vabbè, prima di parlare di legge elettorale, io vi voglio far sentire una cosa. Allora, avete visto il trionfo della grande bellezza che ha vinto lì? Cos'è il Golden Globe? Come si chiama? Golden Globe. Allora, Rai News 24 chiamano Tony Servillo. L'avete sentita questa? Io sì. Tu l'hai sentita, senti Vincino, chiamano Tony, il giornalista chiama Tony Servillo, senti. Non parliamo allora dei punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola. Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche. Poi, possiamo dire secondo lei che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo cosa? Film? Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la sentiamo, ci sente? No. Grazie, una culo. Ah, gradina. Si voleva sapere perché. Ci sente? Vincino. Va bene, la ringraziamo. Va bene, sto entrando così, ma vattene a fanculo di Rai News. Questo, il grandissimo Tony Servillo, ma come si fa? Ma dai, a Servillo, grandissimo attore, però un po' di classe. Ma Vincino, ma ti rendi conto? Però lei che parte di là era partita proprio male, dai. Ho capito. Ma quindi sono suscettibili, insomma, mai come gli attori, come dire, non è che non c'è più, suscettibili, forse qualche giornalista, il direttore forse regionale. Sì, forse. Però tra attori e giornalisti sono i peggio, poi gli attori di satira pure loro suscettibilissimi. Sono suscettibili. È un mondo così, non è che il giorno della grande vittoria dice... Ma le critiche qua papà, questo si è inventato un tunnel, Silvia, sto entrando in un tunnel, lo sento. Si è inventato male, devo dire che mi sente? No, e questo mi fa schiantare, perché ha perso la testa, ha servito, ma mi sembra che sia da un po' tutto il gruppo della grande bellezza stia un po' perdendo. Vabbè, se vedono già gli Oscar all'orizzonte. Insomma, trattata un po' male, un po' pesci in faccia. Vabbè, che dobbiamo fare a questo punto? Abbiamo parlato di tutte le notizie più importanti ed ora veniamo alla politica italiana. La Corte Costituzionale, il nostro tesauro. Hai visto il tuo amico Michele Ainis che verga? Non sono ancora uscito, non esco alle 5 di mattina. Mi svegliate voi, io sono in pigiama qua così, non è che... con la barba sfatta. Titolo dell'editoriale, schiaffo ai partiti, di Michele Ainis, il tuo migliore amico sul Corriere della Sera, tuo compagno di poker, con Isolano, lui di Messina, io di Palermo, vabbè, insomma, non siamo perfetti. Un bello schiaffo ai partiti, dice, il Parlamento deve fare la legge elettorale, sempre che sappiano scriverla. Caro Vincino, si è tolto una bella... E poi ci troviamo qua, questo bel proporzionale fatto, ritorniamo, guarda, i guai sono cominciati tutti al 92, quando hanno cominciato a imbrogliare, a fare quella, niente, come dire, ce lo ritroviamo. Era perfetta, siamo andati avanti per qua, abbiamo ricostruito l'Italia con il proporzionale, le quattro preferenze. È incredibile, da un minuto, cara Silvia Brasca, da un minuto che stiamo parlando di legge elettorale, io non pensavo fosse possibile. Adesso Silvia Brasca spiegherà a tutti in un minuto e mezzo la differenza tra il modello proporzionale, il modello ispanico, il modello corretto con doppio turno alla francese e il modello dell'elezione dei sindaci. Forza Silvia. No, la matriciana, vi spiego così. Questa mattina, Corriere della Sera, pochi paletti per la nuova legge elettorale, è fatta, cioè legge il titolo più ottimistico sulla legge elettorale, no? Io non lo so, quando vedo di legge elettorale, ripeto, ma è un mio difetto, vado avanti, giro pagina, poi in rassegna stampa ovviamente leggerò qualcosa per cercare di capire anch'io, è un modo per capirci, ma insomma Vincino, ti appassiona questa cosa? No, però c'è Renzi che gli hanno detto che se non mette a posto questa cosa lui non può andare a vincere, andare alle elezioni, vincere e governare con i suoi ragazzini, no? E quindi deve fare questa cosa qua, c'ha ancora una settimana di tempo e... Soffiamo per un'altra settimana e poi basta. No? Adesso te la prendi con i ragazzini di Renzi, ma Renzi non è il tuo idolo, il tuo... Sì, Renzi lui è bravo, come dire, però come c'è una squadretta che è un po' scarsolina, bisogna dire, no, vabbè, noi speriamo che quando la fa quella di governo la fa un po' meglio. E poi non è che, come dire, è il mio idolo, ma non è che siamo qua, come dire, siamo in... Poi io sono un attore di satira sempre, a me mi diverte massacrarli questi. Infatti stai dicendo, non hai ancora di per sé, hai ancora massacrato nessuno oggi, non ho capito come mai. Con chi te la vuoi prendere? Dai, sono 6:45, non hai ancora. Te la sai ancora? Cioè, quello che non si sa se torna dal Messico ancora presidente o qualche cosa, no? Non si sa come torna. Letta. No, e quell'altro. Dall'altra parte c'è che Grillo e Casaleggio sono automassacrati in casa. In maniera proprio con questo referendum falso là così all'interno, no? Cioè che lui e Casaleggio sono proprio come Franca Ingrassia, ormai diventati una vecchia coppia di comici scarrupati. Eccoli, sì, subito adesso. Adesso il Movimento 5 Stelle ci scrivono, ci dicono: ecco, siete contro il Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma sono loro stessi che se li sono massacrati, dai. Le cose che dicono i loro senatori, quelli là più. più intelligenti, più normali, sono molto più avanzate di quelle che dico io. Poi che abbiamo? Te lo dico io dopo il traffico, chi c'è? Non hai ancora citato il caso De Girolamo Boccia. De Girolamo Boccia. 24 mattino. Alessandro, entro il 31 gennaio devo pagare 113 euro e rotto di canone Rai, 14 canali, ma non ne bastano 3? Io questi soldi non ce l'ho! Cari compagni, avete perso. Siete nati perdenti da sempre e mannaggia a me quando io ho abbracciato la vostra ideologia. Niente Alino, semplicemente c'è una domanda che io mi faccio tutti i giorni e non riesco a darmi una risposta. E insomma, conto su di te, sulla tua professionalità, sul tuo sapere, insomma. La mia domanda è questa, ma 9x9 farà 81. Sento tante persone che insultano i gay, gli omosessuali e così, ma quanti fascisti che c'è ancora in giro? Noi vecchi dobbiamo spaventarci perché noi abbiamo visto cosa succedeva. Io vorrei sapere dove sono andati a finire i saggi, dove sono andati a spandere la saggezza. Siamo stufi noi a Torino di pagare l'abbonamento annuale e questi qua della GTT fanno 25 giorni di sciopero all'anno. Sassuolo Milan 4-3. Vorrei spezzare una lancia sulla schiena di Allegri. Allegri a casa. Tu chiamale se vuoi le emozioni. Ma che c'è? Anche gente che canta. Silvia Brasca, devi dire qualcosa anche tu sul Milan. Vuoi infierire? Dai, su, forza, è il tuo momento. Silvia non c'è più. Silvia, vabbè, allora adesso recuperiamo Silvia Brasca. Allora, stavi parlando di De Girolamo Boccia, ma questo qua, bella solidarietà. Ah, io sono decidano scuola, i giudici, rigoroso con tutti, soprattutto in famiglia. Ma come, in quel momento in cui doveva dare proprio la complicità, appoggio all'altra metà. Ma queste sono le fregature, sentite Boccia, senti Boccia, pare che la chiami il ministro, si saprà difendere da sua, ma è tua moglie! È tua moglie! Nunzia si saprà difendere! Si approfitta per divorziare, questo è terribile! Basta! Di divorzi ne abbiamo già parlato abbastanza. Io avevo un mio amico che quando la moglie si ammalò, proprio divorziò, via, paf! Ma dai! Fanno così, sono certi nel sud, certi infami che fanno così. Ma no, ma che dai! No, ecco, basta, si è scatenata su Boccia. Silvia Brasca l'abbiamo recuperata, Silvia, eccoci qua. Va bene, meno male, sì, stavamo parlando di Milan-Sassuolo, uno ha detto questa cosa, meno male che è caduta la tua linea, così non dicevi niente. Sentite Boccia, Boccia. Sta a difendersi da solo, non si preoccupi, si difenderà in Parlamento e con i magistrati, come è giusto che sia. Si sa difendere da sola, addirittura pare, no Silvia, la chiamate il ministro, si sa difendere da sola, è un'altra di che, ma come il ministro, è tua moglie, il ministro la chiama, no, scrive Repubblica, è proprio la solidarietà umana, dice Vincino. Anche in quella casa non ci devono essere giornate tranquille. No, infatti. Non è facile però effettivamente, come perché se la chiamava Nunzia si sa difendere da sola, Vincino poi dicono. Ha detto pure io sono di altra scuola, di una scuola rigorosa, cioè ha detto io mica sono di Benevento, così proprio, cioè non è che, cioè ha esagerato in questo, cioè non dico complicità di coppia, no, ma un minimo di, come dire, è tua moglie, pure tu l'hai capito questa cosa qua, è tua moglie, no? Addirittura secondo qualche giornale, quando Boccia dice si difenderà dai giudici, insomma, ma come, sì, dai giudici, ma non è manco indagata, proprio gli butta le cose, esatto. Per libero, cioè il titolo è questo: Boccia tradisce la moglie. Vabbè, oggi io non l'ho manco letto, non ne so niente. Adesso diventa il colpevole Boccia. Adesso diventa lui il colpevole nel caso. Come dire? Cioè, non si sta comportando. Mia moglie mi avrebbe tirato dei certi sgarassoni, avesse detto quelle cose là. Vabbè, sentite questo messaggio che mi arriva, cara Silvia Brasca, no? Per entrare nel pieno di questa inchiesta. De Girolamo e Boccia erano alle Maldive al Palm Beach Resort in queste vacanze di Natale. Giuro, mi è arrivato in questo istante. Non so che cosa voglia dire all'interno dell'inchiesta beneventana. Questo. E lui là ha incontrato una maldivana. No, basta, Vincino, fermati. Silvia, fermalo tu, quando vedi che prende la sua deriva della satira, fermalo. Però Silvia, come finirà secondo te questa vicenda? Perché noi ne parleremo alle 8.15 del caso De Girolamo. Rimpastone, forse fa entra tutto nel rimpastone. Mamma mia, il rimpastone. Un'altra bella, tu leggi le... Io c'ho il rimpasto, che invece è una cosa che davvero mi manda ai pazzi quando sento quella parola. Il rimpasto. Adesso ci accusano di essere renziani perché critichiamo il rimpasto. Ma io ieri, prima di Renzi, l'ho detto il rimpasto. Mi ricorda veramente queste cose da Democrazia Cristiana, il rimpastone. Facciamolo fare a Vincino, che lui ama tanto alcuni ministri. Forza, chi manderesti via, Vincino, del governo? Allora, Alfano, vabbè, per tutto quello che ha fatto e continua a fare, perché là c'è il suo coso che dice, sapeva tutto, mi chiamava ogni giorno, quello del Kazakistan. Allora, Alfano già fregato Alfano totalmente. Via. No, come cosa? Quell'altro che fa, aspetta, che vuole buttare 130, levare 100, ruba 130 euro al professore. Ma chi? Saccomanni? Saccomanni, via totale, guarda, il peggio di tutti è Saccomanni. Vabbè, guarda, via. Poi... con l'aggravante che viene da una scuola di alto livello. Banca cui, Italia, certo. Sì, poi... esattamente, ma si mette a rubare. Come dire. E poi che aspetta, no, andiamo avanti. Cioè, ce n'è... Già hai tolto il ministro dell'interno e il ministro dell'economia, quindi così, cosa vuoi? Io quella la giustizia la vorrei lasciare, invece perché la cancelliere fatto cose, sinora sta facendo delle cosette carine, guarda. Tutte quelle leggi sono state criticate da Travaglio, aveva tutta ragione la cancelliera, tutti torti. Questo è l'evento, salviamo la cancellieri, va bene, mi devo fermare qui, ringrazio Vincino e Silvia Brasca del TG della 7, ci ritroviamo alla prossima, è tempo di giornale radio, rientriamo con la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:17 minuti. Forza, forza, schema Allegri inserito. Sì, insomma, schema ex Allegri inserito. Dai, cari italiani, sono le 7:17 minuti, dovete andare a produrre, dovete andare a lavorare, portare i bambini a scuola e fare tutte le vostre consegne. Dai. E allora, oggi parleremo della vicenda, la vicenda politica legata al ministro De Girolamo, che ricordiamo non è indagata, ma raccontano sui giornali sta creando il rischio di un terremoto politico. Avremo ospite Marco Lillo del Fatto Quotidiano, avremo ospite il senatore Formigoni del Nuovo Centrodestra, dunque il partito della De Girolamo, avremo ospite l'onorevole Gozzi del Partito Democratico. Qui sapete c'è anche un intreccio familiare, perché De Girolamo è sposata con l'onorevole Boccia del Partito Democratico, allora tutti gli occhi sono puntati anche su cosa farà il partito del segretario Lorenzi. Insomma, questo sta creando dei problemi a livello politico e di tenuta. Ne parleremo alle 8.15, ora andiamo a scoprire cosa ci offrono i quotidiani. In questo martedì 14 gennaio i titoli, il Sole 24 Ore apre con Marchionne altri 3 anni nella nuova Fiat Chrysler, questo è il titolo di prima pagina, poi chiaramente la legge elettorale prende i titoli di quasi tutti i quotidiani, pochi paletti per la nuova legge elettorale, così apre il Corriere della Sera, per Repubblica voto la consulta detta le regole.

dice De Girolamo deve dimettersi. Ne parliamo, e parliamo di questo caso politico con il senatore Roberto Formigoni, che è dello stesso partito, nuovo centrodestra del ministro, e tra l'altro è presidente della commissione agricoltura, quindi lei, Formigoni, si occupa in qualche modo anche della tematica simile a quella del ministro. Buongiorno Formigoni. Buongiorno a voi, benvenuto. Buongiorno, certo, mi occupo della stessa tematica, sono il presidente della commissione che segue e controlla l'operato del Ministero dell'Agricoltura. Esatto, e voglio salutare anche l'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Qua. Partito Democratico, qui bisognerà spiegarlo, perché c'è anche un intreccio, è inutile, anche se i diretti protagonisti e tutti smentiscono, ma insomma il fatto che Nunzia De Girolamo sia sposata con l'onorevole Boccia del Partito Democratico, questo crea e genera chiaramente anche un dibattito all'interno del dibattito stesso. L'onorevole Gozzi è della linea, mi pare di capire, giusto per sintetizzarla, poi approfondiremo, dovrebbe dimettersi De Girolamo, questa è la sua linea, Gozzi? Sì, la mia linea è che io sono un parlamentare, ho il dovere di ascoltare i ministri in Parlamento, di basarmi sulle dichiarazioni in Parlamento e non sugli articoli dei giornali. Da quello che leggo sui giornali mi sembra che ci siano tutta una serie di aspetti che non indicano un comportamento irreprensibile. E io credo che per essere ministro in genere, soprattutto oggi in Italia, occorra avere un comportamento irreprensibile. Allora, la posizione è chiarissima. Senatore Formigoni, il ministro Alfano, intervistato oggi all'Unità, dice non ha fatto nulla di male, sono sicuro, Nunzia De Girolamo è vittima del fango e sono registrazioni fatte, carpite, rubate a casa. A questo punto uno non potrà più neanche parlare liberamente a casa. Lei di questa linea? Guardi, a me sembra che bisogna tener conto di alcuni fatti inoppugnabili. Il primo è quello che ricordava lei. La magistratura non ha ritenuto che ci fosse nulla di illegittimo, anche di potenzialmente illegittimo, in tutto ciò che ha detto e fatto il ministro De Girolamo, tant'è vero che non ha emesso un avviso di garanzia. Il secondo fatto, il ministro De Girolamo ha reso amplissima disponibilità a intervenire in Parlamento spiegando tutto ciò che è accaduto. Questo comporta perlomeno una sospensione di giudizio, perché non è che il Parlamento può andare addirittura al di là di quello che pensa la magistratura e può addirittura emettere giudizi prima che l'interessata, cioè il ministro, si pronunci. Io invoco la razionalità, non esprimo un giudizio, dico rispettiamo i tempi e le modalità. Certamente la ministra De Girolamo ha fatto capire di aver usato qualche espressione forte, ma era in casa sua innanzitutto, non poteva essere intercettata e si è in qualche modo scusata di queste espressioni forti, dopodiché neanche la magistratura rileva qualcosa di irregolare. Ecco, qui c'è il tema, effettivamente il tema di base è che queste intercettazioni, come detto, sono intercettazioni rubate, cioè c'è una persona che è andata con un registratore nascosto. Però le chiedo su Formigoni, quando vengono fuori queste questioni sempre si invoca aspettiamo la magistratura, in questo caso la magistratura neanche indagata, aspettiamo il corso, aspettiamo le spiegazioni, ma le chiedo, quando un cittadino legge sui giornali alcune parole o alcune presunte pressioni, sembrano abbastanza inequivocabili che si sta parlando, come dire, di gestione, di bar, di un deputato che si interessa di alcune cose, non crede che un cittadino possa trarre un giudizio comunque anche su morale su una persona che fa politica? Certamente sì, nel senso che le intercettazioni rivelano qualche cosa di non piacevole, però la domanda da farsi in questi casi è sempre, le intercettazioni sono per caso manipolate? Perché è facilissimo estrapolare da una discussione a più voci, per di più in casa, una o due frasette che fuori dal contesto sembrano descrivere un comportamento non irreprensibile da parte del ministro. Quindi torno a dire, se le cose stanno così il panorama è spiacevole. Spiacevole, ma non sembra configurare alcun reato, ma se poi le cose stanno, il ministro Di Girolamo parlerà in Parlamento nelle prossime ore, lo ascolteremo tutti, mi auguro lo possano ascoltare anche i lettori e in qualche modo, non dico che ci possa essere la diretta televisiva, ma insomma i giornali se ne occuperanno ampiamente e allora il giudizio potrà essere completo. Tra l'altro teniamo presente che il reato certo è stato compiuto da questo cittadino che ha registrato un ministro, quando per registrare, per intercettare un ministro la magistratura deve mettere in atto una serie di procedure. Questo signore, che fra l'altro è certamente indagato, magari innocente, però è certamente indagato lui stesso, insomma il panorama mi sembra che possa permettere al segretario del mio partito Alfano di parlare di macchina del fango. C'è certamente una componente del fango. Allora, distinguiamo il fango da quello che c'è dentro. Andiamo a vedere se c'è dentro qualche cosa e su quello giudicheremo con serenità. I rumors dicono che insomma la situazione politica non sia delle più facili, c'è anche tutto il rimpasto in discussione e potrebbe Nunzia De Girolamo, leggevo anche ieri i giornali, essere la prima a pagare politicamente per questo. Onorevole Gozzi, perché lei si spinge così avanti? Insomma, un po' l'accusa, mi sembra di dire, i Formigoni, che certamente potrebbe profilarsi anche da quello che si è letto qualcosa di spiacevole, ma forse lei si butta un po' troppo avanti a dire si deve dimettere. Cioè, hai già emesso una sentenza politica lei, onorevole Gozzi? No, è quello che spiegavo, io non ho messo nessuna sentenza politica e credo che innanzitutto bisogna distinguere, è certamente tutto molto spiacevole, a me quello che è emerso che sarebbe stato detto o fatto dal ministro mi sembra molto grave, non sono intercettazioni, sono registrazioni carpite in un modo molto pessimo da un'altra persona in casa della parlamentare, però non si tratta di intercettazioni. Ne occorreva una procedura particolare, ma questo è sul metodo sono d'accordo con quanto si diceva, ma vede, io ripeto, se risulta che sono state fatte delle pressioni per le nomine delle ASL, se sono state fatte delle pressioni per il bar dello zio, vede, io credo che la politica non deve chiedersi se è reato o no, ma se è un comportamento adeguato a chi ha un ruolo istituzionale, che sia parlamentare ancor di più se poi diventa ministro, o se non lo sia adeguato. E questa è la domanda che dobbiamo farci. Non possiamo delegare al magistrato la valutazione sulla correttezza politica, sulla moralità di un comportamento. Credo che questa sia un giudizio politico che devono dare le istituzioni politiche. Vede, paradossalmente ci possono essere dei casi in cui i comportamenti politici spingono a chiedere, se confermati, le dimissioni, e un avviso di garanzia magari non dovrebbe spingere a chiedere le dimissioni. Perché? Perché il comportamento rende evidente che è stato fatto magari qualcosa che non si addice, che non è adeguata, che non è giusto faccia qualcuno che ricopre ruoli istituzionali, e invece magari l'avviso di garanzia viene dato per una questione da accertare a un presunto innocente, e perché dire che un pubblico ministero deve decidere chi sta in Parlamento e chi sta al governo. Quindi sono due valutazioni completamente diverse. Ah, ma è chiaro, lei lo fa indipendentemente dal percorso giuridico, le dice. Quindi lei dice anche se Nunzia De Girolamo non è indagata, però queste frasi spiattellate così sui giornali raccontano di uno scenario che non le piace. Ecco. No, non mi piace, però io ho detto ieri, vi ripeto oggi, che io ho l'onore di essere un parlamentare e ho anche il dovere, essendo parlamentare, di giudicare in base alla dichiarazione in Parlamento. Quindi anch'io aspetto le dichiarazioni del Ministro e obiettivamente, per tanti motivi, mi auguro che abbia modo di spiegare tutto. Sinora lo scenario che emerge è uno scenario che io trovo molto grave, perché io credo che la politica, sia che si faccia in Parlamento che al governo, non dovrebbe occuparsi di quelle vicende, non dovrebbe proprio occuparsene. Io non mi sono mai occupato di nomine di ASL, di appalti al bar degli ospedali per amici, parenti o conoscenti. No, ma la questione è questa, senatore Formigoni, è più grave uno che mette un registratore se lo nasconde e registra delle cose, o è più grave il fatto che la politica parli di queste cose? Allora, dal punto di vista della gravità è probabilmente più grave il primo caso, però il primo caso è un semplice cittadino e quindi è chiaro che invece l'attenzione è concentrata su quello che fa il politico, tanto più se è un ministro, quindi il rilievo della cosa ci sta tutto. L'interesse che i cittadini conoscano perfettamente quello che è accaduto ci sta tutto, non c'è nulla di patologico in questo, però vanno ricostruiti esattamente i fatti, cioè io non mi fido, ho il dovere di non fidarmi di una ricostruzione affidata ad una registrazione probabilmente manchevole, di poche frasi, eccetera. Ripeto, andiamo a vedere, sono assolutamente limpido in questo, andiamo a vedere che cosa è successo esattamente rispetto al bar dello zio, rispetto ai controlli nella SL, e sulla base di questo ci sarà l'obbligo, certo, di valutare e di pronunciarsi. L'onorevole Gozzi dice che a casa propria un deputato, perché allora era deputato, non dovrebbe neanche parlare dei controlli del bar dello zio. Va bene, poi voglio dire, in una conversazione di 3 ore può saltare fuori di tutto. Andiamo a vedere esattamente che cosa il ministro ha detto e poi soprattutto che cosa ha fatto, perché si può anche parlare e millantare. Adesso, ripeto, non conosco nulla, ma come nessuno conosce nulla, se non degli spezzoni di registrazione fatto da questo signore che per di più voleva nuocere il ministro De Girolamo, perché questo è chiarissimo, vuole nuocere il ministro De Girolamo, si registra una conversazione di 4 ore, poi ne prende alcuni pezzettini, li ricostruisce ad arte e li butta in pasto all'opinione pubblica. Questi pezzettini ricostruiti ad arte disegnano un ritratto spiacevole del ministro De Girolamo. Però sentiamo il ministro De Girolamo come ricostruisce i fatti e poi cerchiamo di ricostruirli anche noi, e sulla base di quello avremo il dovere di pronunciarsi e soprattutto l'opinione pubblica potrà valutare. Insomma, chiedo che non sia emessa la sentenza di morte di una persona prima di averla sentita e prima di aver costruito un minimo le cose come sono andate. Allora, sta di fatto che in Parlamento se ne discuterà. Io ci fermiamo 4 minuti, riprendiamo dopo la pubblicità con l'onorevole Gozzi del Partito Democratico, il senatore Formigoni del Nuovo Centrodestra, per cercare di capire anche cosa succede all'interno del Partito Democratico. La domanda, insomma, da cui ripartirò è proprio questa. È innegabile, tutti i giornali oggi ne parlano, che anche l'intreccio familiare, le relazioni familiari, in questo caso non sono voglio dire questioni private, ma diventano pubbliche, perché il ministro De Girolamo è sposata con l'onorevole del PD Boccia, e questo su tutti i giornali pone una problematica anche all'interno del PD di come affrontare questa vicenda. 24 mattino. Eccoci alle 8:37, stiamo parlando allora del caso De Girolamo, che ha creato un terremoto anche politico, almeno di dibattito sui giornali. Con noi ci sono il senatore Formigoni del Nuovo Centrodestra, l'onorevole Gozzi del Partito Democratico. Voglio salutare anche Marco Lillo del Fatto Quotidiano, Lillo che Fatto Quotidiano che per prima ha pubblicato queste intercettazioni. Buongiorno e benvenuto Marco, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, intanto giro una domanda che via SMS è arrivata: perché queste intercettazioni escono ora, visto che risalgono al 2012, quando Nunzia De Girolamo non era ministra, peraltro? Posso rispondere io? Sì, certo. Innanzitutto sono registrazioni, perché sono state fatte da questo dirigente dell'ASL di Benevento a casa del padre della Nunzia Di Girolamo. E perché escono adesso? Perché sono state depositate in un procedimento penale dove questo dirigente, per difendersi dalle accuse contro di lui, è indagato per truffa, sostanzialmente dimostrare che lui era un ingranaggio di un sistema più grande, ha portato le registrazioni di ore e ore di conversazione di questi incontri, ai quali si parlava di affari e ai quali partecipava anche Nunzia De Girolamo. Prima diceva il senatore Formigoni, dallo spaccato di queste intercettazioni potrebbe anche emergere qualcosa di poco piacevole, però bisogna capire se queste intercettazioni sono complete, se non sono state manipolate, e poi soprattutto bisogna capire esattamente quali sono state le conseguenze, cioè se il ministro ha fatto o non ha fatto qualcosa, perché parlare in una conversazione di 4 ore si può parlare di tante cose. Insomma, per profilare quello che anche oggi Alfano sull'Unità definisce una possibile macchina del fango, Lillo. Dunque, allora, il ministro non ha smentito nulla di quelle parole. Manipolate la vedo difficile, sono state trascritte dalla Guardia di Finanza e diciamo sono pubblicate sul sito internet del Fatto, chiunque le può leggere, e sono abbastanza chiare. Il ministro ha fatto qualcosa? Secondo me sì. Noi abbiamo anche pubblicato sempre su internet, sul sito del Fatto, possono ascoltarla i vostri ascoltatori, la intervista che ho fatto io al direttore generale, per esempio, dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Benevento, quello al quale, secondo le parole del ministro, bisognava mandare i controlli e successiva parolaccia, per indurlo sostanzialmente ad accelerare. Accelerare cosa? Accelerare l'affitto del bar dell'ospedale, un bar redditizio circa 200.000 euro di fatturato annuo, allo zio del ministro. Ora, il dato qual è? Quel bar era gestito da un'altra persona, questo bar oggi è gestito proprio dallo zio del ministro a seguito di un contratto che è stato firmato a settembre 2013, noi l'abbiamo trovato, l'abbiamo pubblicato, e quindi parliamo di fatti, parliamo di soldi, parliamo di contratti. Il direttore generale ha ammesso che il ministro De Girolamo l'ha chiamato chiedendogli appunto di accelerare, lui gli ha spiegato che era difficile perché c'era un altro contraente, c'era in corso una lite, e ovviamente successivamente i dati che noi abbiamo pubblicato sono, punto primo, che i controlli, anche se del NAS, non dell'ASL, in quel bar, diciamo del rivale, sono arrivati, che quel bar ha chiuso, che il direttore generale chiamato da De Girolamo ha firmato il contratto con lo zio. E poi l'ultimo dato di questa mattina è che dagli accertamenti fatti dal comune di Benevento a seguito dell'inchiesta del fatto è risultato che il bar dello zio non aveva tutte le autorizzazioni. Sì, è abusivo, insomma, è abusivo. Insomma, questo, Formigoni, dal punto di vista dell'inchiesta giornalistica, questi sono i dati. Poi, per carità, il giornalista non si deve sostituire al magistrato, però il dato di fatto, dice Marco Lillo, è che il bar è gestito poi dallo zio, quel bar di cui si discuteva e che doveva essere, secondo alcune intercettazioni ambientali, gestito dallo zio. No, indubbiamente questi sono particolari in più che finora mi sembra fossero sconosciuti o comunque sono sconosciuti al grande pubblico, ma io ho proposto semplicemente un percorso lineare, cioè io ho detto innanzitutto si ascolti l'altra parte, si ascolti sempre l'altra parte, il ministro Di Girolamo che ha dato ampia disponibilità di parlare in Parlamento e la sentiremo tutto con grandissima attenzione e ci aspettiamo da lei che sia ricca di particolari, anzi ricchissima di dettagli, che spieghi tutto e poi che ci sia questa verifica dei fatti. Ma secondo lei rischia politicamente, sinceramente, Formigoni? Ma guardi, in questo periodo storico in cui qualunque piccolo singhiozzo provoca delle valanghe, è chiaro che... E poi mi sembra chiaro che ci sia un attacco politico di una parte del Parlamento. L'opposizione che ne vuole assolutamente le dimissioni, l'opposizione fa il suo mestiere, sì. Si attacca ad ogni particolare per cercare di mettere in difficoltà il governo. E poi c'è anche qualche giudizio, mi sembra troppo anticipato, di una parte della maggioranza, mentre invece, torno a dire, il percorso limpido è quello di ascoltare, quindi, insomma, come fu ascoltato a suo tempo il ministro Cancellieri. Sì, quindi diciamo, la traduco con un sì come risposta, cioè rischia, è un po' a rischio, visto che lei dice ogni singhiozzo rischia di tramutarsi in questo momento in valanga, il rischio c'è, visto che gli attacchi sono anche da alcuni all'interno della coalizione di governo. Dopodiché non dimentichiamo che spetterà al Presidente del Consiglio, a cui Nunzio De Girolamo ha rimesso il mandato, di dare una valutazione, spetterà alle forze di maggioranza valutare esattamente quello che vogliono fare, tenuto conto che in questo momento questo governo di larghe intese, che mette insieme gli avversari storici che però hanno deciso di collaborare, ha delle priorità assolute sul campo della realizzazione di un programma che finalmente faccia ripartire l'economia, perché poi è questa la cosa che innanzitutto interessa i cittadini. Ah, no, ma questo sicuramente. Sicuramente, no, ma i cittadini vorrebbero anche parlare di cose più concrete, però si parla anche di quelle, ma si parla anche di casi politici. Onorevole Gozzi, la stessa, con la chiarezza con la quale è abituato lei a rispondere, glielo dico, le faccio la domanda secca. È un problema ed è una questione politicamente difficile da gestire il fatto che Nunzia De Girolamo sia sposata con un onorevole Boccia del Partito Democratico? Guardi, no, perché nessuno di noi ne fa una questione personale. Io rispetto moltissimo le due persone, conosco Francesco Boccia da anni e quindi non c'è nessun attacco personale né rispetto a Nunzia De Girolamo né rispetto a Francesco Boccia, che hanno fatto una scelta nella loro vita privata assolutamente e da rispettare, legittima, su cui nessuno vuole fare nessuna ingerenza, ma che nel momento in cui sono nella vita pubblica vanno giudicati in base alle regole della vita pubblica. Quindi le posso assicurare che non c'è nessuna reticenza, nessun imbarazzo, no, perché oggi sul fatto quotidiano, mi pare, Marco Lillo, voi riportate anche quello che ha detto il senatore Casson del Partito Democratico, cioè a dire che c'è una sorta di consegna del silenzio all'interno del partito su questa vicenda che potrebbe creare imbarazzo. Non so, Gozzi intanto è così e poi Lillo, Gozzi è così, è arrivato guardi, hanno dato consegna del silenzio, non l'hanno data a me, perché io mi sono espresso. Questo è vero, mi lasci dire che mi sono espresso non per dare un giudizio preventivo, perché in realtà non diciamo cose molto diverse con il senatore Formigoni. Io dico, se quello che ho letto, io l'avevo letto, quello che voi avete ricordato anche sul Fatto Quotidiano, è confermato, non mi sembrano che siano le condizioni, dato che il comportamento è ben lontano dall'essere irreprensibile, perché il ministro rimanga. Però, ripeto, le cose vanno discusse in Parlamento, anch'io mi auguro che in Parlamento il ministro sia in grado di chiarire ogni aspetto della vicenda e io darò il mio giudizio alla luce di quanto il ministro dirà in Parlamento. Dopo aver ascoltato. Lillo, effettivamente questa cosa di Casson, è possibile, plausibile che nel Partito Democratico questo crei imbarazzo? Beh, è evidente che crea imbarazzo, però non soltanto perché Nunzia De Girolamo è la moglie di un importante esponente, presidente di commissione del PD, ma anche perché oggettivamente è un pezzo importante di questo accordo che tiene insieme il governo Letta. E quindi se cominciamo a togliere un pezzo, poi magari se ne toglie un altro. Adesso si parla di rimpasto, del rimpasto alla crisi, il passo è breve, quindi c'è questa paura, insomma. La paura c'è. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi anche gli ascoltatori, l'ultima parte di 24 Mattino. Allora, Marco da Bari, buongiorno Marco. Buongiorno a sì. Tutti. Guardi, sempre sull'argomento di oggi, sì. Mi sembra veramente assurdo che non si riesca a rilevare un fatto così semplice, ma credo così determinante, e cioè che è un onorevole con un dirigente, quindi due figure in qualche modo comunque pubbliche, due pubblici ufficiali, diciamo pure così, per parlare di questioni teoricamente pubbliche, sì. Si incontrano in un luogo privato, sì. Che sia addirittura quello del padre, se non ho capito male, sì, la casa del padre dell'onorevole, a casa, sì. In una condizione nella quale ieri sentivo anche il marito che lei addirittura stesse allattando la bambina o il bambino, vabbè, e si fermano a ragionare per 4 ore. Cioè, ma io non riesco veramente a comprendere. Cioè, lei dice la cosa che le dà più fastidio è che questo incontro sia avvenuto a casa. È stato un appuntamento voluto, desiderato, spinto, perché c'era qualcosa di importante sul quale ragionare, che non andava fatto negli uffici pubblici. Ma di cosa parliamo? A me mi stupiscono queste ore di conversazioni basate sul nulla. C'è un dirigente pubblico che per difficoltà enormi si riesce a incontrare un singolo cittadino, se ha bisogno di parlare di un onorevole, diciamolo chiaramente, Marco, perché tra privati di un aspetto pubblico non si può parlare in una casa privata. Vabbè, adesso reato non lo so, non sono avvezzo se sia un reato oppure no, però la cosa che più la indigna lei, Marco, giusto per capire, è che un dirigente di un ASL vada a casa di un deputato, del padre di un deputato, per parlare di vicende pubbliche invece di farlo in un ufficio pubblico. Insomma, questo è la cosa che la indigna. Va bene, la ringrazio. Massimo da Roma, buongiorno Massimo. Buongiorno. Vabbè, innanzitutto il conflitto di interessi all'interno della famiglia De Girolamo mi sembra la punta dell'iceberg del modus operandi italiano. E poi io sinceramente farei intercettare sempre i politici, in modo da poter essere controllati e trasparenti, in modo che se commettono qualcosa di sbagliato, via, a casa. Basta. Cioè lei vuole l'intercettazione preventiva? Cioè se... preventiva. Cioè uno fa il politico? Ma uno sceglie di fare il politico, non è che viene obbligato. Capito, ma lei già prevede e pronostica che un politico faccia comunque affari? Che il mondo, l'Italia a oggi, insomma, non sono pochi i casi che dimostrano questo. La politica deve dare il buon esempio. Io insegno a mia figlia a prendere l'autobus, nel senso poi non posso, e vado con lei, non posso prendere la macchina e poi dire a lei prendi l'autobus perché conviene, cioè nel senso ci vuole l'esempio da dare. Quindi la politica, no va bene, le intercettazioni. Allora su questo vorrei coinvolgere gli ospiti, a cominciare da Formigoni, devo fare una premessa, lei non sa quanti messaggi sono arrivati e glieli giro, io voglio rispondere anche a questi ascoltatori, a dire ma come chiamate Formigoni a parlare di questo caso, che Formigoni ha vicende giudiziarie sue, e insomma gli faccia le domande su quante interviste ho fatto e abbiamo fatto col senatore Formigoni, che ha risposto quando sono stati del suo caso personale, senatore Formigoni, delle sue inchieste. Ecco, ne abbiamo fatti, l'ho invitato varie volte, adesso però non è che tutte le volte devo, adesso il senatore Formigoni sta parlando perché è dello stesso partito, il Nuovo Centrodestra, del caso De Girolamo, abbiamo fatto diverse interviste sulle sue vicende giudiziarie, ne faremo altre se ci saranno sviluppi, ecco, senatore Formigoni. Mi permetta anche di dire, anche perché il caso non mi interessa, è lì. limpido, mi sono state sollevate delle contestazioni, io ho risposto puntualmente, adesso tutto nelle mani del giudice dell'udienza preliminare, che deciderà, che delibererà. Io non mi sono mai sottratto ai processi, mi permetta di ricordare che ho subito decine di processi nel corso della mia esistenza amministrativa, in particolare 11 volte sono stato rinviato a giudizio e 11 volte sono stato assolto. Vedremo poi, insomma, se ci sono, però adesso parliamo di un'altra cosa. Allora, l'intercettazione dei politici, beh, questa, insomma, lei che ne pensa? Poi anche Gozzi vorrei sapere l'intercettazione, perché se si fa politica bisogna essere trasparenti. Ma certamente se si fa politica bisogna essere trasparenti, voglio dire, benissimo, decidiamo di intercettare i politici, poi dovremmo decidere di intercettare anche i burocrati, perché oggi il potere dei burocrati è addirittura superiore a quello dei politici. Poi vediamo che reati sono commessi da imprenditori, addirittura da uomini e forze dell'ordine, non lo so, non mi sembra che sia questa la strada, però voglio dire, è possibilissimo che uno pensi in questa direzione. Quello che è importante è che un politico chiamato a rendere conto del suo operato lo faccia in maniera totale, limpida e cristallina, senza sottrarsi, mi permette di tornare a dire, come io mi sto comportando di fronte alle contestazioni. Ho dimostrato la mia innocenza all'opinione pubblica, però adesso sarà un giudice è chiaro, questo sarà il giudice. Prima della risposta di Gozzi vorrei anche da Marco Lillo. Lillo, quello che ha stupito l'ascoltatore di Bari, credo Marco da Bari, era l'indignazione proprio di Marco da Bari, dire ma di cosa stiamo parlando? Già il fatto che si tenga una riunione a casa, in una casa privata, già lista, come dire, già lista tutto, punto, non bisogna andare oltre, è un giudizio troppo impietoso? No, diciamo, c'è un dato che forse può aiutare a far arrabbiare ancora di più il nostro ascoltatore. Noi siamo andati nei luoghi e divertente notare che la casa del padre di Nunzia De Girolamo, peraltro presidente del Consorzio Agrario di Benevento, un ruolo importante, ha una particolarità, e adiacente, proprio accanto, la villa, la villetta, diciamo, del titolare del bar, perché le due sorelle, cioè la mamma di Nunzia e la moglie del titolare del bar, che oggi probabilmente verrà chiuso perché è abusivo, che è stato tenuto grazie appunto a queste, sono vicini di casa, diciamo, sono vicini di casa. Allora, il punto non è tanto che si discute di cose pubbliche in un luogo privato, ma che si discute di cose private con un funzionario pubblico, anzi con tre funzionari pubblici, perché lì c'era il direttore generale dell'ASL, il direttore sanitario e il direttore amministrativo, e si parlava del bar di quello che abitava accanto, insomma, che era lo zio, cioè di questo stiamo parlando. Capisco che queste cose possono sembrare minori, però insomma, quando non sono minori, certo, del proprio spaccato. Ma appunto, ma io cioè, quante persone devono per parlare con un funzionario di basso livello di una ASL fare file lunghissime, avere problemi, insomma, qui ci abbiamo proprio a domicilio la pubblica. No, ma è chiaro, è proprio quello che diceva l'ascoltatore, quello che diceva l'ascoltatore. Io per incontrare, o comunque una persona, un cittadino italiano, per incontrare un funzionario pubblico deve chissà penare qualche ore, se non giorni, e invece qui, come dire, a disposizione del politico, almeno nell'incontro. Onorevole Gozzi, lei si farebbe intercettare tranquillamente, o le sembra questo grande fratello un po' troppo eccessivo? Ma è evidente che si passa sempre da un estremo all'altro, io lo ripeto, quando è vero che non è il dottore che prescrive delle ricette per cui bisogna fare politica, quindi è evidente che quando uno accetta l'onore di fare politica e entra in Parlamento deve assicurare un grado di trasparenza e di irreprensibilità molto più elevato di quello che deve assicurare un normale cittadino che ha un esercito delle funzioni pubbliche. Questo vale ancora di più quando si ha funzioni di governo, vale ancora di più quando si è parte di un governo. Poi è evidente che se noi riuscissimo a tornare a un grado sufficiente, un minimo sufficiente di credibilità e di rispettabilità della politica, noi potremmo anche dire che ci sono degli aspetti della vita privata, della vita familiare, della vita affettiva, eccetera, che fin tanto che non incidono in maniera negativa nell'esercizio della funzione pubblica, devono rimanere tali, devono rimanere privati. Purtroppo, in un periodo come questo, di scarsa credibilità della politica e in cui regolarmente emergono delle vicende, io lo ripeto, mi auguro per la credibilità dell'istruzione, sì, della politica, che questa vicenda non sia come appare, ma dato che continuano costantemente a emergere queste vicende, evidentemente tanti di coloro che fanno politica non si rendono conto che non devi proprio metterti più in delle situazioni, di ambiguità. Noi non possiamo in questo periodo permetterci di situazioni di ambiguità. Staremo a vedere intanto come si sviluppa dal punto di vista del discorso e della logica parlamentare. Io ringrazio l'onorevole Sandro Gozzi del PD, il senatore Roberto Formigoni del Nuovo Centrodestra e Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano. Ci fermiamo qui anche per oggi con Elisabetta Fusconi in redazione, con Alessandro Marco Tulli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè. Ci potete seguire, io sono anche su Twitter, mi potete seguire Alino Milan, quello è il mio profilo, c'è anche il profilo di 24 Mattino e ci ritroviamo domani puntuali alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.